L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità, dello sviluppo intelligente, del rispetto per l'ambiente, ovvero il nostro pianeta come solo in parte è, ma come potrebbe diventare. Oggi partiamo dalla denuncia che ci è arrivata da questo imprenditore, Giuseppe Conti, direttore operativo di Saib, un'azienda del Piacentino che produce pannelli truciolari. Noi stiamo protestando perché l'Italia sta incentivando chi brucia il legno per produrre energia e questo ha creato una gravissima distorsione sul mercato di approvvigionamento del legno che sta mettendo a rischio di sopravvivenza tutta l'industria del pannello truciolare. L'Italia o l'Europa, mi perdoni? È tutta l'Europa che sta soffrendo, è l'Europa in cui manca il legno, siamo costretti ad importare navi di legno di recupero dai paesi tipo Sud America, dal Canada, per far fronte al nostro fabbisogno. Di qui siamo partiti per la trasmissione di oggi. Siamo davvero davanti a un paradosso ambientalista? Per incentivare le fonti di energia alternative stiamo sottraendo materia prima, scarti legnosi e legno di recupero a chi è sempre vissuto di questi per la propria produzione? Questo è quanto ci ha raccontato Conti e quanto sostiene anche la sua associazione di riferimento, Assopannelli, che fa parte di Federlegno. In questi ultimi giorni, tanto il presidente di Federlegno, Rosario Messina, che quello di Assopannelli, Paolo Fantoni, hanno presentato al Senato un appello per ripensare il sistema degli incentivi a biomassa e scongiurare la crisi di un settore portante dell'economia italiana. Cosa comporta per voi che il legno di recupero vada a finire nelle centrali a biomasse? Comporta indubbiamente una lievitazione dei costi di produzione dovuti a una sostanziale carenza di materia prima nel mercato. Le aziende italiane produttrici di pannello durante il 2010 hanno fermato la loro produzione già per notevoli settimane e nel contempo abbiamo assistito ad un aumento di circa il 110% delle importazioni dall'estero di pannello truciolare, il che significa che il mercato c'è, ma che le aziende italiane si trovano a questo punto in difficoltà perché il costo di acquisto della materia prima le porterebbe ad una produzione non competitiva con gli acquisti dall'estero. Conti di Saib conferma una situazione sempre più difficile anche per la sua azienda. Noi stiamo vedendo che in inverno, che è la stagione più critica, siamo senza legno, dobbiamo fermare gli impianti vuol dire mandare in cassa integrazione personale, vuol dire presentare bilanci sempre più spaventosi al sistema bancario. Sono preoccupato perché bisogna fare fatti. Non possiamo stare in piedi solo con chiacchiere. Quella che lei mi ha detto è la sua situazione? È la situazione di tutto, il settore del pannello truciolare in Italia. Siamo con gli impianti fermi. Fermare questi impianti comporta gravissime perdite. Sotto accusa di Conti e di Assopannelli sono i certificati verdi, una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Come funzionano? I certificati corrispondono ad una quantità di emissioni di CO2. Se un impianto alimentato a fonti rinnovabili produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili, ovvero petrolio, gas naturale, carbone, ad esempio, il gestore ottiene dei certificati verdi che può rivendere a prezzi di mercato a quelle industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili, ma non lo fanno autonomamente. Con i soldi incassati si può pagare quindi il legno necessario ad alimentare la centrale a biomasse e così la concorrenza aumenta e i prezzi salgono. Nel mio caso specifico, noi siamo un'azienda che incide sul 10% del mercato, il prezzo d'acquisto del legno si è raddoppiato, dal gennaio a dicembre del 2010 si pagava 25 euro a tonnellata, a gennaio paghiamo oggi 45 euro a tonnellata. Se in Italia il legno costa tanto e non basta per tutti, che si può fare? Si va all'estero, ovviamente, spiega Paolo Fantoni. Nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, l'aumento delle importazioni è arrivato soprattutto dai paesi dell'est, per cui Cecoslovacchia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Anche se altrettanti paesi importanti fornitori dell'Italia rimangono l'Austria e la Germania, dove però per motivi analoghi ai nostri, in questo ultimo periodo abbiamo assistito alla chiusura di molti impianti di produzione di pannello trucciolare, perché anche lì si trovano ad avere una competizione che gli sta rubando la materia prima. Il rischio è simile anche in Italia a questo punto, quindi? Il rischio è esattamente uguale anche in Italia, con un aggravante, che l'Italia è un paese fortemente esportatore di mobili, siamo i primi esportatori al mondo dopo la Cina, e conseguentemente quello che noi mettiamo a repentaglio è la nostra capacità di competere come filiera del mobile sul mercato internazionale. Da dove arriva la materia prima seconda nazionale da cui si rifornivano prima della crisi Conti della SAIB e i suoi colleghi produttori di pannelli? Da Rilegno, per esempio, il consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno in Italia. Ne fanno parte le imprese produttrici di imballaggi, ma anche i fornitori di materia prima o importatori di materiale o di imballaggi legnosi. Fausto Crema è il presidente di Rilegno. Capisce le difficoltà dei produttori di pannelli, ma è un po' come se ci dicesse chi è causa del suo mal. E quello che sta succedendo in questo periodo è colpa loro. Perché? È colpa solo della loro politica che hanno fatto 2 anni fa. Quello che non ha funzionato, che ha messo in crisi adesso i produttori di pannello, è stato il mancato rispetto degli accordi che avevano stipulato nel 2008. Li hanno stracciati, gli hanno detto: di là dell'accordo che non vale più niente, se volete che vi ritiriamo il vostro materiale, ci dovete pagare 30 o 40 euro la tonnellata e portarcelo a casa nostra gratis. Allora è intervenuto il consorzio Rilegno, il quale si è sobbarcato gli oneri e ha fatto in modo che il materiale andasse lo stesso ugualmente al riciclo. Però solo a quel punto qualcosa si è rotto. Qualcosa si è rotto, nel frattempo si aumentava il numero delle centrali a biomassa. Esatto, l'arco alpino, ad esempio, ogni paesino si è fatto la sua centrale termica, lo scarto di lavorazione non veniva più dato ai pannellieri, ma veniva utilizzato per crearsi la corrente elettrica e il riscaldamento nelle case, nelle abitazioni, e adesso devono correre disperatamente e andare alla ricerca del materiale per sopperire alla loro incauta operatività del 2008. E dove lo possono trovare questo materiale? Secondo Crema, la migliore per assopannelli sarebbe insistere per far incentivare la dismessa coltivazione dei pioppi, specie a rapido accrescimento che potrebbe soddisfare tutti. Il legname prodotto potrebbe andare a chi produce imballaggi e l'industria dei pannelli potrebbe tenersi gli scarti, che vanno benissimo per la produzione appunto di pannelli trucciolari. Qual è lo stato della pioppicoltura italiana, ci chiediamo? I dati non sono aggiornati, ci spiega Raul Romano, ricercatore dell'INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, perché l'ultimo inventario dell'Istat risale al 2005. In questo momento in Italia abbiamo una superficie di 8 milioni di ettari, quasi 9 milioni che sono bosco, vero e proprio bosco, e il restante, che sono circa altri 4 milioni di ettari, che invece sono la macchia mediterranea, forme più rade di bosco, per un totale di 10 milioni e 400 mila ettari, che vengono definiti appunto la risorsa forestale nazionale. Di questi boschi abbiamo che la pioppicoltura, in particolare, sono 47 mila ettari su 10 milioni di ettari, che sono veramente pochi. Ma il problema non è solo che i pioppi sono pochi, ma anche che per farli crescere ci vogliono almeno una dozzina d'anni e che ora la richiesta sul mercato è più forte, tanto che chi ha gli scarti ora li vende, non li regala più come un tempo. E anche gli agricoltori si stanno orientando verso coltivazioni ad accrescimento ancor più rapido dei pioppi, eppure non riescono a soddisfare la richiesta. In Italia si è fatta una politica di piccoli impianti, dove ci sono i piccoli impianti ben dimensionati, di esempi purtroppo ce ne sono pochi, riescono a pianificare sul territorio la raccolta del legname e a utilizzarlo nel proprio impianto. Però in Italia sono stati costruiti impianti enormi, da 35 megawatt, dimensioni gigantesche, che praticamente cosa fanno? Utilizzano legname che arriva dall'Argentina, dalla Sud America, o usano, addirittura si stanno trasformando in inceneritori, perché devono consumare, bruciare. E comunque ci domandiamo, merita conto far crescere degli alberi solo per poi bruciarli? I'm driving in my car. No e poi no, tanto più che il legno, bruciando, rilascia la quantità di anidride carbonica che l'albero aveva assorbito crescendo, per cui il bilancio in termini di emissioni a effetto serra resta in pareggio. So you don't like it, but girl I know you're alive. Lo stesso discorso vale per le nostre mal gestite foreste. Un patrimonio che è pari al 34% del territorio italiano, dove il legno si taglia con il prevalente scopo di essere bruciato. Ma non è così, raccogliendo ramaglie, che si preservano e gestiscono i boschi, sottolinea Massimo Rocco del WWF Italia. Ci potrebbe essere ancora oggi un margine di recupero se solamente finalizzassimo e cominciassimo a vedere nei boschi una risorsa anche per fare una serie di altre cose, cioè nel senso per creare del legno finalizzato alla nostra industria, anche ai cantieri, cioè un legno strutturale, un legno finalizzato a una serie di altri prodotti, quali per esempio le botti per il vino, cioè una serie di altre cose. Diamogli una finalità migliore. Non pianifichiamo la gestione solamente per produrre materiale che va ad essere bruciato. E il WWF, lo ricordiamo, per Costituzione difende la natura, non certo i disboscamenti. Eppure anche il WWF ritiene che una programmazione e gestione controllata sarebbe meglio dello stato naturale di oggi, che più che naturale è di abbandono. Così si darebbe soddisfazione al patrimonio forestale e anche all'industria del mobile nazionale, che tra l'altro potrebbe certificare fino all'ultimo l'origine del legno lavorato, come ormai richiesto da quasi tutti i clienti internazionali. Qualche passo nella giusta direzione lo si sta muovendo. Ultimamente le regioni Toscana e Lombardia hanno sottoscritto patti con tutti coloro che sono coinvolti nella filiera del legno, dai consorzi forestali ai mobilieri, dai produttori di energia a quelli di macchine per il legno, per una gestione equilibrata, sostenibile e redditiva dei boschi. Ma è ancora troppo poco. Comunque, con boschi ben gestiti, che accadrebbe alle centrali a biomasse? Sempre il WWF. Quello che bisognerebbe bruciare, su cui bisognerebbe arrivare a veramente a incentivare la ricerca, ma l'utilizzazione, è quello, si parlava del materiale di scarto, nel senso, io ho i campi destinati alla produzione cerealicola, alla produzione di barbabietola, alla produzione di ortaggi, alla produzione per prodotti vegetali destinati all'alimentazione. Noi dovremmo finalizzare gli scarti di questi prodotti, non il prodotto a essere bruciato. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Abbiamo aperto davvero tante porte e non possiamo chiuderle tutte oggi. Ci lasciamo con le parole di Giuseppe Conti, il direttore operativo della SAIB, l'uomo che ci ha indotto a riflettere sulla differenza tra legno e legna. Chiediamo che vinca il buon senso, cioè chiediamo che il governo intervenga perché si possa bruciare solo il legno che non si può più recuperare. Anche noi chiediamo buon senso su tutta la linea, per le aziende in difficoltà, per le centrali inutili, per i boschi abbandonati, per i pioppeti che potrebbero essere. Buon senso per l'altro pianeta, quello che vogliamo. Di alberi e foreste abbiamo parlato nella prima parte di questo programma e di alberi continuiamo a parlare con questa intervista di Cristina Carpinelli ad Andrea De Carlo, tra i promotori della campagna di Greenpeace, Scrittori per le foreste. Questa è una campagna lanciata da Greenpeace circa 6-7 anni fa. Parte dall'idea di sensibilizzare gli scrittori e poi i lettori naturalmente al fatto che i libri sono stampati su carta, ovviamente, che la carta proviene però dalla polpa di cellulosa ricavata dagli alberi e che purtroppo parte di questa cellulosa deriva da alberi delle foreste primarie del mondo, vale a dire di quelle foreste che ancora non sono state tagliate, poi fatte ricrescere o cambiate. E non parliamo solo della foresta dell'Amazzonia, ma le foreste primarie sono in varie zone del mondo, per esempio nella Finlandia ci sono le foreste dell'Australia, e quelle delle Filippine. Sono vari habitat importantissimi per l'equilibrio della terra, perché contengono moltissime specie vegetali, molte delle quali non sono nemmeno state identificate ancora oggi. poi moltissime specie animali e anche esseri umani, nel senso che sono popolazioni che vivono nelle foreste e delle foreste. Tutto questo viene distrutto a un ritmo spaventoso, nel senso che un dato che a me colpisce tantissimo e che è molto facile da visualizzare è che un'area di foresta delle dimensioni di un campo di calcio viene distrutta ogni 2 secondi, cioè il tempo di contare 1, 2 e questo spazio vitale e fondamentale è distrutto e scompare per sempre. Da allora, da quando questa campagna è iniziata, io mi sono impegnato a pubblicare i miei libri su carta, all'inizio carta riciclata e poi su carta certificata FSC, è una sigla che certifica questo, cioè garantisce che il legno o la carta che si usa proviene da un uso forestale consapevole e compatibile con l'equilibrio della terra, diciamo. Tra l'altro FSC è la sigla che un consumatore attento dovrebbe ricercare in qualsiasi tipo di carta, anche nella carta che si usa a casa o anche quando si comprano dei prodotti in legno, cioè questa certificazione. Certo, fra l'altro si diffonde, se, diciamo, chi ci fa caso scopre che appunto anche nei grandi supermercati, per esempio, può trovare, non so, dai tovaglioi di carta, per dire, alla carta igienica. Lei mai andato a fare una sorta di viaggio attraverso le foreste per vedere cosa c'è attorno al legno? A me è capitato di farlo in Perù e ti accorgi che c'è tutto un mondo anche di illegalità, c'è un mondo proprio, come diceva lei, che minaccia tutti, minaccia gli alberi, minaccia le persone. A lei mai capitato di andare? Sì, mi è capitato di andare. A me le foreste sono poi degli ambienti che piacciono moltissimo, proprio per la loro densità di vita, di varietà, proprio di importanza proprio vitale. Poi basta anche in realtà parlare con chiunque abbia a che fare professionalmente col legno. Per esempio mi ricordo una volta una conversazione con un falegname a Roma, il quale faceva per esempio i parquet, i pavimenti in legno, e mi raccontava come intorno per esempio al Tech, che è uno dei legni più pregiati e difficili da trovare, sono dei traffici simili a quelli che ci sono intorno alla cocaina, nel senso che arrivano queste navi fantasma cariche di questo materiale preziosissimo ormai. È un bene che una volta tagliato e eliminato non viene più sostituito, perché appunto una foresta richiederebbe poi millenni per riformarsi. La prima domanda che le faccio è legata proprio al suo lavoro. Lei diceva all'inizio, quando ancora non registravamo l'intervista, che spesso l'impegno anche di uno scrittore in questa direzione, nella direzione di scegliere consapevolmente, ad esempio nel suo caso di aderire alla campagna di Greenpeace, non riesce ad avere la visibilità che dovrebbe avere. Questo secondo lei perché? Ma questa è una considerazione molto triste, ma che è inevitabile fare, nel senso che quando sono riuscito a ottenere dal mio editore che il mio libro venisse stampato, mi sembrava un grande risultato. Mi ricordo ancora l'emozione di quando sono andato in tipografia vicino a Bergamo a vedere gli enormi rulli di carta che provenivano appunto non da un uso indiscriminato e folle delle risorse, ma da una coscienziosa ricerca. E mi sembrava bellissimo. Fra l'altro poi nel tempo la faccenda si è evoluta al punto che il mio attuale editore, che è Bonpiani, pubblica tutte le sue pubblicazioni di narrativa, sono tutte su carta certificata oggi. Eppure nessuno ne ha parlato, o se ne è parlato, se ne è parlato proprio con pochissimi, ridottissimi accenni. E la cosa forse più triste è che mi pare che anche proprio l'attenzione pubblica generale sia molto distratta rispetto a questo. E forse perché appunto non c'è niente di spettacolare appunto in un'operazione di questo genere. Chi è sensibile la nota, chi non è sensibile, e purtroppo è forse ancora la maggioranza delle persone, non ci pensa. Uno pensa, ma la carta è la carta, anzi la carta è, diciamo, una cosa di cui si può fare un uso indiscriminato, no? Come into the world, my child. Awake into life, my child. Life is good, you will see. Come into the world, my child. Thank you. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. È l'articolo 9 della nostra Costituzione ed articolo 9 è anche il titolo di questa rubrica in cui Marco Carminati, settimana dopo settimana, ci segnala un bene italiano da salvare. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti al nostro incontro. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la fondatrice del Fondo per l'Ambiente Italiano e presidente onoraria del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, lei oggi ci accompagna in un luogo che le è particolarmente caro, il Parco del Ticino. Le chiedo subito intanto dove si trova il Parco del Ticino. Il Parco del Ticino, prometto, è il mio folle amore, si trova tra la Lombardia, il Piemonte e la Svizzera ed è a mezz'ora da Milano, per cui dovrebbe essere un luogo straordinario di vacanza per i milanesi. Ecco, che cosa si può vedere? Che i cittadini che vengono da queste città vicine, da Milano, dal Piemonte, dalla Svizzera, che cosa possono ammirare in questo parco? Guardi, io sono stato sovente in Africa e anche nell'Okavango. Il Parco del Ticino è ancora più bello perché oltre ad esserci queste acque che scorrono, alberi secolari ai fianchi, sabbie dorate, ci sono uccelli di ogni genere, ma nello sfondo, se è bel tempo, ci sono le Alpi innevate e il Monte Rosa, cosa che in Africa non c'è. Non si può trovare, insomma, un piccolo paradiso nel cuore della pianura padana, della pianura industrializzata e molto abitata, appunto pianura padana. Ecco, però io so che lei combatte da anni una propria personale battaglia insieme ad altre persone, perché questo paradiso in realtà è insidiato, è sempre più insidiato. Ecco, ci vuole raccontare quali sono i pericoli che circondano il Parco del Ticino? Nei luoghi del cuore, in questa campagna che il FAI ha lanciato alcuni mesi fa, dove i cittadini devono segnare un luogo amato e 500.000 di cittadini hanno sottoscritto, tra i luoghi più citati è proprio di Via Gaggio e della sua brughiera come uno dei posti amati del luogo del cuore, che sono esattamente nel Parco del Ticino, accanto alla zona del Seprio. E quella è un'area naturalistica meravigliosa, che però con la terza pista che vogliono costruire a Malpensa unicamente per scopi elettorali, sparirà. Quali sono gli altri pericoli che circondano questo parco? Ci sono dei grandissimi pericoli, perché la regione Lombardia vuole riscrivere tutto i codici per le aree protette. Si teme che non vogliono più lasciare autonomie a questi parchi regionali. E tutte le associazioni ambientaliste hanno protestato per questo. In Lombardia ci sono 24 parchi regionali, fluviali, montani, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono 64 riserve naturali, 31 monumenti naturali, 81 parchi locali di interesse sovracomunale, ma naturalmente i politici vogliono impossessarsene per poter accontentare i loro elettori, per accontentare i loro sindaci, i quali pensano che soltanto col cemento e con l'allargamento della possibilità di costruzione, diminuendo le aree protette, tutte ne possono godere, e non capiscono che il Parco del Ticino, con le sue acque meravigliose, con i suoi uccelli, con i suoi boschi, può diventare un luogo straordinario per il tempo libero, un'oasi straordinaria di ossigeno per i milanesi, i quali stanno soffocando sotto alle smog e all'inquinamento che ha superato a Milano ogni soglia, anche quella permessa dalla Comunità Europea. Tra l'altro io so che il Parco del Ticino ha anche dei problemi finanziari e forse anche di inquinamento, Sì, la Regione Lombardia ha dato nel 2010 1.025.000 euro, di fronte a un costo di 4.800.000, e quest'anno ridurrà questa cifra del 20% se non di più. Per cui il parco, che ha come autofinanziamento 1.900.000 euro, sta malissimo e ovviamente ne soffrono le guardie, i quali si occupano di incendi, si offrono di tutelare la zona, i rifiuti aumentano lungo le sponde perché non c'è sufficientemente una raccolta da parte di chi dovrebbe farla, non solo, le acque in tanti punti sono piene di spume e inquinatissimi perché non vengono controllati i depuratori dei vari paesi ed in questa maniera i pesci ne soffrono. Presidente, grazie per queste sue accorate parole, per l'allarme che lei lancia per la salvezza di questo habitat naturale importantissimo per tutti noi. E sarà con noi anche settimana prossima, parleremo del Parco Agricolo Sud e intanto io la ringrazio molto per questa sua partecipazione. A presto, Presidente. Grazie. A presto. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. Per scrivermi, vi ricordo, laura.bettini@radio24.it. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.